Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Avevamo fatto la spesa, stavamo tornando verso casa. Mia mamma era carica come un mulo di sacchetti e io ero piccolo. Piccolo tipo che le mamme, cariche di sacchetti come i muli, non ti chiedono neanche di portare i sacchetti perché sei troppo piccolo. Ronzavo attorno a mia mamma facendo un casino senza senso e agitando per aria una macchinina appena ricevuta in regalo. Mi chiamo Federico Bernocchio, 34 anni, vivo a Milano e ho sempre sognato di essere un supereroe. Se guido io, quei soldi saranno tuoi. Dammi ora e luogo e ti do 5 minuti. Qualunque cosa accada in quei 5 minuti sono con te, ma ti avverto. Qualunque cosa accada un minuto dopo sei da solo. Io guido e basta. Qualche sera fa, un mio caro amico mi ha quasi obbligato ad andare al cinema a vedere un film. Il film è quello di cui avete appena sentito un pezzo. Si chiama Drive. Era partito tutto molto bene. Era partito proprio come un film d'azione. A me piacciono i film d'azione, quelli in cui anche magari non capisci cosa sta succedendo, però c'è tanta azione, quindi ti fai prendere, un po' come Luna Park. Poi il film a un certo punto è cambiato, ha cominciato a diventare lentissimo e raccontava la storia di questo tizio che sembrava essere proprio un eroe tipico, no? Quasi moderno, ovviamente, tipo dei film di Tarantino, no? In cui c'era un po' di violenza, un po' di amore, però lentissimo, dilatato, veramente al limite tra l'eroe moderno e la sola più grande. Sono uscito da quel cinema e ho insultato questo mio amico praticamente per mezz'ora dicendogli: ma che roba è sta roba qua? E lui mi ha detto: tranquillo, poi questa roba monta con calma. Non so se l'avete ancora visto, il film è ancora fuori, mi auguro per voi, mi auguro che sia ancora fuori nel cinema vicino a casa vostra. Se non lo è, andate a cercarlo. Si chiama Drive, appunto, è di un regista danese, credo, che si chiama Rifkin, che ha fatto un sacco di altri film che per molti sono già film di culto, e questo credo che a breve lo diventerà. Il sottotitolo, si dice sottotitolo per i film? No, vabbè, insomma, il titolino sotto al titolo, che devo dire ogni tanto anche in Italia azzeccano, è Drive, alcuni eroi sono reali. Questa puntata parla di quella cosa lì, parla di quando c'è stato un momento nella vita di ognuno di noi in cui abbiamo realizzato che non solo non eravamo degli eroi, non eravamo dei supereroi, ma soprattutto non avremmo mai potuto esserlo. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it. In realtà parla di due cose la puntata di oggi e ci sono particolarmente affezionato per quei due motivi lì. Perché da una parte parla di supereroi e parla di quel momento che abbiamo già affrontato ogni tanto durante questo programma, perché devo dire che tra i molti racconti che sono arrivati, moltissimi parlavano di infanzia e moltissimi parlavano di quel momento dell'infanzia che i grandi scrittori definiscono come la perdita dell'innocenza. Questo però è leggermente diverso, perché non c'è una ferita profonda in quel momento, c'è solo che a un certo punto tu pensi di poter volare, pensi di poter picchiare tutti i criminali e vincere il male, e a un certo punto, magari in un pomeriggio d'estate sotto il sole con tua mamma carica di sacchetti della spesa, per un non nulla ti accorgi che non è così. Questo è uno dei temi di questa puntata. L'altro invece è lo sforzo enorme che fanno i genitori di cercare di proteggerci esattamente da quella cosa lì, cioè dal fatto che fino a una certa età noi crediamo di poter fare tutto quello che vogliamo. Crediamo che il mondo ci somigli, non ci facciamo delle domande. Semplicemente viviamo quello che dobbiamo vivere e siamo convinti di poter fare tutto. Ecco, è uno dei compiti dei genitori, è esattamente quello, è farti credere, magari fino a... per più tempo possibile, il più a lungo possibile, che quella cosa lì è esattamente come la pensi. Sì, è vero, hai dei superpoteri e probabilmente ce li avrai per sempre. È anche per questo motivo che sono molto felice di questa puntata di oggi, perché ogni tanto mi rendo conto che con le storie che mi mandate non solo capisco delle robe anche io, ma ne approfitto per ringraziare delle persone che magari non ho mai ringraziato, nella fattispecie i miei genitori. Basta, Matteo Caccia, io sono qui sul profilo Facebook, è il profilo Facebook per andare a vedere tutto quello di cui parliamo durante i giorni, potete scaricare i podcast, niente, mi sono messo a parlare d'altro perché mi ero imbarazzato a parlare dei miei genitori, quindi ho virato su Facebook, voi siete qui, @radio24.it, oppure 349-238-6666. Veniamo alla storia di oggi, che è una storia piccola piccola, ma è esattamente quello che vi chiedo, una piccola storia, un episodio della vostra vita, che racconti meglio di altri qualcosa di voi. Gran parte delle mie vacanze le ho passate a Palaiseau. Palaiseau è un piccolo paesino della Valle d'Aosta, a metà strada tra Pré-Saint-Didier e Courmayeur. I miei genitori avevano preso un piccolo appartamento in un condominio. Tra l'altro, questo condominio si vede per una frazione di secondo nel video Children di Robert Miles, una delle canzoni più zarre di tutti gli anni 90. E quando l'ho visto per la prima volta, ancora un po' mi metteva a piangere dalla malinconia. Insomma, ci ho passato veramente tantissimo tempo in quel condominio. Doppie vacanze tutti gli anni, estate e inverno. In questo condominio sono stato tantissimi anni, dai 4 fino ai 18-19 anni. Era un condominio molto grande, c'erano più scale. Tutte queste scale erano collegate dalle cantine, per cui passavamo la giornata, pur avendo un giardino stupendo, correndo negli scantinati, nelle cantine al buio. C'è stato un momento nella mia infanzia in cui sembrava che sarei potuto diventare uno forte a sciare. E allora, una volta partita la stagione invernale, al suono dell'ultima campanella del venerdì pomeriggio, lasciavo la scuola per andare lì ad allenarmi. Poi mi sono rotto. Un malleolo e le palle. Per cui non sono mai diventato un campioncino di sci. Peccato. Però lo stesso ho passato eoni in quel condominio. E di tutti i ricordi che ho legati a quel posto, e sono veramente tanti, tra cui cito almeno quella volta che le gemelline della scala F mi hanno dato 500 lire per far vedere il pisello, ce n'è uno particolarmente vivido. È quella volta che ho capito che non avevo neanche un superpotere. Era estate, faceva molto caldo. Ero andato in paese a fare la spesa con mia mamma. In paese vuol dire da Larenza. Larenza era una donna ciccionissima che aveva un bar tabacchi e un alimentari. Erano proprio due esercizi diversi, uno di fronte all'altro, nell'unica piazzetta di Palaiseau. Lei stava solitamente al bar, però se vedeva che c'era qualcuno all'alimentari, usciva, attraversava la strada, lentamente, un po' come un bradipo grasso, e veniva a servirti. Io e mia mamma avevamo fatto la spesa e stavamo tornando a casa. Lei era carica come un mulo di sacchetti e io ero piccolo. Piccolo tipo che le mamme cariche di sacchetti come dei muli non ti chiedono neanche di portare i sacchetti perché sei troppo piccolo. Ronzavo attorno a mia mamma facendo un casino senza senso e agitando per aria una macchinina appena ricevuta in regalo. Sono figlio unico, per cui sono cresciuto fondamentalmente giocando da solo, soprattutto durante le vacanze, visto che non sempre c'erano altri bambini nel condominio. Principalmente stavo con mia mamma, perché mio padre comunque ha sempre lavorato, e anche se giocavo da solo, comunque ero un bambino molto, molto espansivo, mi attaccavo subito alle persone, andavo a parlare, ero un po' rompipalle, insomma, da un certo punto di vista. Avevamo preso la strada da sotto, per cui adesso, per raggiungere il nostro appartamento, c'era da fare una salita molto lunga. A un certo punto, tra un vrum vrum e un altro, dico a mia mamma: «Mamma, lo sai che sono un extraterrestre? Sono nato su Marte e so volare. Guarda, guarda, sparo i raggi dalle mani. Piu, piu!» Lei mi ha guardato con tutto l'amore del mondo. E mentre faceva fatica a portare i sacchetti di plastica per quella lunga salita sotto il sole, mi ha guardato e mi ha detto: «Davvero? Che bello!» Era stanca. Aveva uno strano tono nella voce, un tono che adesso che sono vecchio so che si chiama condiscendenza. E allora mi sono fermato un secondo e ho capito che non era vero. Non ero un alieno e non avevo nessun superpotere. Federico Bernocchi è un amico recente, di quelli che incontri quando sei grande, quando ti sembra di aver capito che cosa ti piace o cosa ti piacerebbe fare della tua vita, e quindi riconosci subito una persona che in qualche modo ti somiglia. Sono stato molto sorpreso, sono stato anche molto felice quando ha voluto far parte di questo programma e mi ha mandato il racconto di un episodio della sua vita. Devo dire che spesso mi capita, leggendo i racconti che mi mandate, di pensare che quella cosa lì sarebbe potuta accadere a me, o che magari me ne era successa una simile, o magari invece proprio la stessa, identica. In questo caso la sensazione è stata così forte che mi sono sentito quasi scottato. Perché io della verità non avevo un trasporto particolare nei confronti dei supereroi. Certo, ovviamente guardavo i film tipo Superman, oppure vedevo il telefilm di Wonder Woman, avete presente? Quello con Linda Carter, che a me piaceva da morire perché era stata Miss Universo e perché era nata il 24 di luglio, come me. Però ad esempio non leggevo i fumetti di genere, quelli della Marvel per intenderci, e questo fa decisamente la differenza. Eppure anche io, come Federico, sono stato protetto da mia mamma. Anche io ho vissuto quel momento in cui, nonostante tutto, anche di fronte all'evidenza delle cose, mia mamma ci ha provato a dirmi che sì, avevo ragione, di non preoccuparmi, che le cose erano proprio come sembravano a me, che era ancora presto per smettere di credere nei superpoteri, per non pensare di poter diventare un pilota di caccia, ad esempio, anche se mi mancavano 2 decimi dall'occhio destro, o un calciatore, anche se calciavo la palla come una capra. Perché io non lo so esattamente com'è il mestiere del genitore. Cioè, so quello che vedo e che mi raccontano gli amici riguardo le notti insonni, le abitudini stravolte e le giornate completamente rivoltate come un calzino. Capisco che la cosa più complicata sia cercare di mantenere una vita sensata nei primi anni di vita del proprio figlio, anche se poi in realtà tutta quella fatica sembra non pesare per nulla. Leggendo il racconto di Federico, però, mi sono fatto anche un'altra idea riguardo al crescere dei figli. L'idea che mi sono fatto è che mi sembra che, passati i primi anni, il compito più grande che spetta a 2 adulti che hanno in consegna una vita giovane sia proteggerla. E non solo dal freddo, dai cattivi o dalla fame. Sia proteggerla dalle offese del mondo. Perché, in fondo, infrangere un'illusione, anche piccola, è un'offesa che può essere molto dolorosa. E c'è una tenerezza infinita nelle parole della mamma di Federico, quando lui le fa vedere che spara i raggi dalle mani e lei, nonostante il caldo e nonostante le borse della spesa, lo guarda e gli risponde: davvero? Che bello. Solo che quel giorno lì, o quel pomeriggio, lei era un po' più stanca del solito e si è tradita. Ma magari di pochissimo, magari solo per quello strano tono nella voce. O forse, chi lo sa, invece lui era cresciuto quel poco che bastava, magari la sera prima, magari la notte, quel poco che bastava per riconoscere quel tono, e anche senza sapere ancora che si chiamava condiscendenza, aveva intuito che qualcosa non funzionava più. Ma anche se da lì in avanti poi Federico ha iniziato a dubitare dei suoi superpoteri, anche se quel giorno un piccolo pezzo di infanzia si è staccato ed è finito chissà dove, lei, nonostante tutto, ci ha provato. Sua mamma, nonostante la fatica e tutto quello che aveva nella sua testa, quel giorno ha trovato la forza per dire: davvero? Che bello. Ecco perché io gli sono grato. Sono grato a Federico e anche alla mamma. Gli sono grato per aver scritto questo racconto, perché mi ha fatto venire in mente che io non avevo mai ringraziato i miei genitori per quello sforzo, per quella protezione ostinata che è propria dei papà e delle mamme, per averci sempre provato a farmi credere che sì, i superpoteri ce li avevo, per aver sempre sostenuto che la notte di Natale c'era un bambino che arrivava a casa nostra, lasciava i regali e prima di andarsene a distribuire gli altri, per farsi forza, mangiava la fetta di panettone che gli lasciavamo sul tavolo della cucina. Non li ho mai ringraziati per aver sempre ascoltato tutti i miei ragionamenti, anche quelli più astrusi, per aver dato retta a tutte le mie illusioni e ai miei tentativi, anche quelli falliti, ed averlo fatto con un sorriso che sembrava proprio voler dire: davvero? Che bello. Te l'ho già detto prima e devo ringraziare ancora Federico per questo racconto, perché nonostante tutto l'imbarazzo del caso mi ha permesso di togliermi un piccolo dente che riguardava evidentemente un conto in sospeso con i miei genitori. Pronto Federico? Ciao Matteo, buon pomeriggio a tutti. Ciao, come stai? Bene. bene, tutto bene. Tu? Il dente che mi hai fatto togliere, non so se l'hai capito, è che effettivamente io non avevo mai detto grazie ai miei genitori per quello sforzo immane che hanno fatto. Non avevano i sacchetti della spesa, perlomeno non mi ricordo di loro quei sacchetti della spesa, però ci hanno provato anche loro a farmi credere che tutte quelle robe lì che pensavo fossero vere fino a una certa età. Poi... Vabbè, ma è il compito dei genitori, insomma, voglio dire, ci proteggono fino all'ultimo in ogni modo possibile. Com'è stata tua mamma? Bene, benissimo. Ma sta storia tu gliel'hai raccontata? Cioè, lei è consapevole del fatto che quel giorno è successo qualcosa? No, non lo so, c'ho un po' il dubbio. Adesso in realtà non gli ho detto di questa cosa, però prima o poi penso che gliela farò leggere, perché diciamo che ha forse un senso dell'umorismo e magari un occhio sulle cose un po' diverso dal mio, per cui non vorrei... che non lo so per quale motivo, però penso che in qualche modo una cosa del genere forse potrebbe un po' scocciarlo, forse deluderlo. Potrebbe viverla male. Gli indorerò la pillola, come si dice. Senti, Federico, io ho già detto che siamo amici, quindi è inutile far finta di niente. Noi ci siamo incontrati tempo fa per cose di radio e poi adesso ci frequentiamo per altri motivi, in sostanza. Sì. Raccontami, ma anche a me, però, perché mica ho capito bene cosa fai in questo momento. Scrivi, in sostanza, giusto? Sì, fondamentalmente scrivo da dopo la radio. Diciamo che il mio compito principale è stressare le persone che hanno riviste o blog o testate in qualche modo, e tento di scrivere il più possibile su quello che poi è il mio interesse principale, ovvero il cinema, la musica e i fumetti. E tra l'altro, a proposito di cinema, visto che ho raccontato prima che mi hai praticamente strappato da casa per andare a vedere questo film che sulle mail citavi come il film dell'anno, e cioè Drive, su cui io mi sono ricreduto poi velocemente rispetto all'inizio, prova a dire meglio di me perché la gente dovrebbe andare a vedere questo film. Ne stavo scrivendo, tra l'altro, in questo momento, prima che tu mi chiamassi, perché è un film di un regista, secondo me, in totale stato di grazia, che è il danese Nicolas Winding Refn, che riesce in qualche modo a rendere più alto un genere che a me sta particolarmente a cuore, che è il cinema action, perché fondamentalmente di quello si tratta, però riesce a farlo in una maniera esteticamente perfetta, con una gestione degli attori, dei tempi, degli spazi, di alcune sequenze assolutamente magistrale. È un film che riesce a soddisfare sia il lato, diciamo, quello più basso di pancia, rispettabilissimo del cinema, però che lo fa in una forma formalmente inattaccabile. Sai cos'è che ti frega, Fede? È che si capisce subito che sei un nerd appena ti metti a parlare di cinema, ma proprio tempo zero, cavolo. Però ne bullo anche particolarmente, perché tra l'altro io sono veramente entusiasta e quasi maniaco e pazzo per questi film, per cui veramente quando Matteo dice che l'ho strappato di casa corrisponde a realtà, cioè gli ho rotto le palle per un mese e mezzo. Tra l'altro, non a caso Federico viene da un'esperienza radiofonica che apparteneva a una radio che era Radio 2, che si chiamava Dispenser, e che in sostanza raccontava più o meno quel genere di cose lì, sempre un po' di nicchia, sempre un po' piccole, della serie, sono robe piccole ma sono meravigliose e noi ve le raccontiamo benissimo. Fede, poi ti lascio. Le gemelline della Scala F, che fine hanno fatto? Non ho la più pallida idea, però insomma ho conservato quel ricordo con un certo imbarazzo, però un certo piacere, perché è una cosa particolarmente divertente. Perché loro ti diedero 500 lire per far vedere una cosa che evidentemente non avevo ancora visto. Esatto, a me e al mio amico Gianmarco, essendo loro in due. E dove? Ah certo, avevamo bisogno di due, uno non bastava. Dove eravate? Eravamo nel parcheggio appunto del condominio di Parisieux, e loro la cosa, assolutamente eravamo molto piccoli, e loro la cosa che faceva molto ridere è che rubavano le 500 lire dal portafoglio della mamma per appunto vedere l'innominabile o l'invisibile fino ad allora. Senti, ci torni ancora a Parisieux in quel condominio? No, ho cambiato casa, adesso da poco mi sono trasferito sempre in Val d'Aosta, però non più a Parisieux ma a La Salle. Vabbè, un po' di malinconia. Un po' di malinconia, sì, perché era veramente, insomma, sono state estati e inverni lunghi ma molto molto belli, insomma ci sono legati proprio tutti i ricordi di infanzia, lo sport, i genitori, i primi amici. Sì, insomma quell'Italia che non c'è più e che ci apparteneva, noi ormai anziani 34, quanti ne hai tu? 34? Io 34, però 35 quest'anno. Ah no, allora 34. Vecchio, Fede, grazie mille. Grazie ancora per il racconto, per essere stato qui, e ci vediamo per ubriacarci anche se non stiamo. Ovviamente, grazie mille Matteo. Ciao Fede, buona giornata. Voi siete qui. Nella foto che mi ha mandato Federico è ad una festa di compleanno, ed è una festa di compleanno di fine anni 70, primi anni 80. Quindi lui ci avrà 7-8 anni. Si vede, non so da cosa si vede, però si vede dal colore, dalla grana della fotografia, dalla luce che entra e poi da degli oggetti intorno. Sapete i festoni da festa per bambini, che adesso sono diversi, assomigliano più a quelli di McDonald's adesso, invece all'epoca erano proprio un po' caserecci, anche se non erano fatti in casa. Lui è proprio in piedi, mezzo busto, credo piano americano direi, ha una luce in faccia fortissima e soprattutto è vestito da uomo ragno. Max, non cominciare. Max, scendi, per favore, scendi da lì sopra. Di là c'è un mio amico, mi fai vergognare. Donna, nutrimi! Max, scendi da lì sopra. Ti ho detto scendi subito, Max. Chiaro, chiaro. E io ti mangio! Dai, scendi! Scendi! Ogni cultura ha una propria favola di riferimento, no? Per cui tutti i bambini crescono più o meno conoscendo una storia che li accompagna e li fa diventare grandi. Nella tradizione americana nel 1963 è apparso questo libro che si chiamava Nel paese dei mostri selvaggi. Credo ne abbiamo già parlato proprio quando avevo visto il film che era stato tratto da questa favola. È la favola che parla di un ragazzino, Max, che è pieno di illusioni, è pieno di quelle illusioni di cui anche Federico nel suo racconto era pieno e di cui era convinto, no? di essere un supereroe, di avere superpoteri e di poter fare qualsiasi cosa semplicemente con la forza dell'immaginazione, anche se non lo sa lui, semplicemente pensa di poterle fare. Max appunto è il protagonista di questo piccolo libercolo che si chiama Nel paese dei mostri selvaggi, appunto di questo autore americano che era anche un illustratore, che si chiama Maurice Sendak, ed è appunto la storia di questo bambino che una notte, mentre gioca in casa, viene mandato dalla mamma a letto senza cena perché sta facendo troppo casino. Lui si infila nella sua camera e lì, solo con la sua immaginazione, lui fa praticamente nascere nella sua stanza una giungla enorme e intraprende un viaggio su una piccola barca e arriva su un'isola dove ci sono questi mostri giganteschi che all'inizio gli fanno paura, lo terrorizzano, e in realtà invece diventano dei suoi amici e lui diventa praticamente il re di quest'isola. Da questa favola del 1963, pochi anni fa Spike Jonze ha deciso di farne un film. Per fare un film ha chiamato uno come Dave Eggers per scrivergli la sceneggiatura. Per scrivere la sceneggiatura Dave Eggers si è messo semplicemente a scrivere e a lavorarci, e poi ne è stato tratto un libro che è stato pubblicato anche in Italia, si chiama proprio Le creature selvagge. Il film purtroppo succede così, in Italia è stato fatto passare come un film per bambini, non è in realtà un film per bambini, ovviamente è un film che racconta una storia di bambini, ma racconta quella storia lì che conosciamo tutti, quella storia in cui a un certo punto noi pensiamo di diventare, di poter essere qualsiasi cosa semplicemente chiudendoci in stanza e usando degli strumenti che abbiamo lì, o magari che non abbiamo, però riusciamo in qualche modo a immaginare. Sto parlando un sacco di film oggi, non so perché Federico è un amico che si occupa di quello, però andate a vedere questi due film, prendetevi il DVD di questo che è sicuramente uscito, si chiama Nel paese delle creature selvagge, è un film meraviglioso che parla di quando sei bambino e quando a un certo punto ti accorgi magari di non esserlo più. C'è un pezzo che è proprio all'inizio del libro che Dave Eggers ha riscritto su quella favola, il libro si chiama Le creature selvagge, e racconta proprio di come in un quartiere che sta cambiando Max, il protagonista, riesca a utilizzare tutti gli strumenti che trova per la strada per costruirsi un mondo tutto suo. Stava accadendo qualcosa nel quartiere di Max. Le vecchie case venivano abbattute e al loro posto sorgevano case nuove, più grandi e più vistose. C'erano 14 case nel suo isolato e negli ultimi 2 anni ne erano state rase al suolo 6, tutte piccolette, tipo ranch a un unico piano. Era accaduta ogni volta la stessa cosa. I precedenti proprietari se n'erano andati o erano morti di vecchiaia. E i nuovi arrivati avevano deciso che la posizione andava bene, ma che avrebbero costruito una casa molto più grande. Questo aveva segnato nel quartiere l'inizio di un ininterrotto rumore di cantieri al lavoro e, fortunatamente per Max, di una pressoché infinita disponibilità di materiali di scarto. Chiodi, legno, filo metallico, isolanti, tegole e piastrelle. Con questa roba, Max aveva cominciato a mettere insieme una specie di casa tutta sua, in cima a un albero, nei boschi, vicino al lago. 349-238-6666. Claudio mi scrive: io ho sempre pensato di poter volare e cadendo da un albero si è spezzato l'omero e il mio sogno. E poi ancora invece Claudio dice: mia mamma mi ha protetto fino al giorno in cui ho dato fuoco alla mia cameretta. Voi siete qui, @radio24.it. L'ultima cosa che mi è venuta in mente, soprattutto guardando la fotografia di Federico di cui ho parlato prima, è che ho visto uno spettacolo di Cabaret qualche sera fa e uno sketch comico era rappresentato da questi due tizi vestiti da uomo ragno. Erano grassi e brutti, cioè dovevano far ridere ovviamente, erano dei finti uomo ragno. Eppure quando a un certo punto uno dei due, perché la gag lo prevedeva, si è tolto la maschera, oh, io ci sono rimasto un po' male. Grazie a tutti quelli che hanno reso anche oggi possibile questo programma. Grazie a Paolino Corleoni, grazie a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. Grazie soprattutto a Federico Bernocchi per la sua storia. La storia di oggi era la sua, era la storia di Federico e parlava di genitori e di supereroi. La storia di lunedì invece è la storia di Edith e parla di fughe. Io guardavo dal finestrino, anche se non c'era un granché da vedere, e mi facevano male le gambe dallo stare in piedi. Dopo un lungo tempo siamo arrivati in una stazione dove c'erano dei soldati, armati. Due sono saliti per dire molto gentilmente che chi era diretto ad ovest faceva meglio a scendere, perché alla prossima stazione c'era già il nemico.